ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi. Era terminata la sinfonia e s'entrava davvero sul palcoscenico per dar principio al primo atto. Ci inoltravamo infatti nel mare aperto, col pericolo grande d'essere scoperti e combattuti dalle crociere nemiche, non potendosi supporre saviamente che la corte di Napoli ignorasse a quell'ora la nostra partenza da Genova e non avesse preso le sue buone cautele per tentar di coglierci lungo il cammino e far di noi giustizia senza carità, avendo per unici testimoni il cielo e il mare. Furono dunque messe le vedette in cima agli alberi, dove s'eran legate, per dar loro un po' d'agio, certe assicelle. Poi si concertarono i segnali notturni tra i due legni, a ciò non avvenisse il caso di smarrirsi o di cambiar gli amici per nemici, o questi per quelli. Poi si cominciò a improvvisar fucine, e si fondettero palle, e si diè mano a far cartucce, e si costrussero fornelli coi mattoni per le marmitte del rancio, e a bordo non fu più nessuno che rimanesse ozioso. Era uno spettacolo amenissimo a vedersi, in quella gran baraonda di genere del tutto nuovo, giacché presiedevano ad essa l'ordine e il silenzio. Dico ordine e silenzio, perché quando nei primi momenti del viaggio da Santo Stefano in là si cominciò a udire a bordo un po' di baccano e non bastò a tenere a segno i chiassosi l'autorità degli ufficiali, Garibaldi si mostrò sul ponte e, salito sulla passerella, tenne una brevissima arringa, la conclusione della quale fu questa: qui, sul mio bordo, non deve udirsi altra voce che la mia, e il primo che ardisse di disobbedirmi si prepara ad essere buttato in mare. «Cuntiquere omnes», direbbe Virgilio Marone da Mantova. Bastò questo brevissimo squarcio d'eloquenza a metter giudizio a più impronti, e il nostro legno parve trasformato in una vera certosa. Non così accadde a bordo del Lombardo, dove Nino Bixio dovette, per farsi intendere, ricorrere non di rado alle mani, e spesso ci trovò sul punto di far con ragione ciò che 4 mesi dopo fece con suo gran torto nella rada di Paola, sul vapore elettrico, dove, tribbiando col calcio d'una carabina le zucche di certi volontari ungheresi e tedeschi che, in barba al suo divieto, sonnecchiavano distesi in coperta, uno ne mandò al creatore, e ad altri 3 o 4 li fe dolorosi per parecchio tempo. Certi amici miei, che navigavano allora sul Lombardo, mi raccontarono a suo tempo parecchi stupendi casi delle furie di Nino Bixio e i brani principali delle sue prediche, una delle quali terminò col seguente mansueto memento: rammentatevi, e se non lo sapeste prima d'ora ve lo dico adesso, che qui a bordo vengo io, prima del Padre Eterno, e voglio essere obbedito a qualunque patto, e saprò farmi obbedire. Quando poi saremo a terra, appiccatemi, se vi sarà possibile, al primo albero che troveremo, ma qui comando io, io, io. Ventisei anni sono scorsi, ma ho tuttora vivo dinanzi agli occhi lo spettacolo della bella e buona compagnia nella quale il mio destino mi aveva spinto. Cominciando dalla gran palandra nera e dal cappello a cilindro del Sirtori, e andando giù giù, sino alle fogge di vestire a Usernani, tutti i modelli del figurino vecchio e nuovo v'erano rappresentati. Crispi, con uno spronchette stretto stretto che mostrava le corde. Carini, col berretto da viaggio all'inglese e un sopravvituccio spelacchiato e corto corto. Calona, vecchio siciliano dai capelli bianchi, con uno sgargiante abito rosso e un gran cappello nero alla Rubens, con una lunga ondeggiante penna di struzzo. Poi il canonico Bianchi, mezzo vestito da canonico, e parecchio bei giovani di Lombardia, vestiti all'ultima moda, e uniformi di linea e dei cacciatori delle Alpi, e costumi da marinaio, e una gran folla di camicie rosse che formavano con la loro massa vivace il fondo del quadro. Tutta questa gente, divisa in crocchi secondo l'età, le amicizie, i gusti, ragionava, novellava, speculava l'etra, la marina e il suolo, come fece, se dee credersi al più gran poeta del nostro secolo, Simonide, poeta cieco. Ma, tratto tratto, in mal di mare assottigliava quei crocchi, perché gente dal muso bianco e dagli occhioni in fuori spariva velocemente o s'accasciava sulle dure tavole del ponte o s'affacciava per dare al mare ciò che non era del mare. La moglie del Crispi, di poi non più moglie, vestita in dimessi panni, giocava a scopa con l'antico parroco Gusmaroli, vecchio, dai capelli lunghi e bianchissimi, dal volto rubizzo e dagli occhi di gatto, del quale Garibaldi soleva dire aver veduto rare volte in vita sua uomo più valoroso. Parrà incredibile, ma pure è vero, che di tutto si parlava, fuorché della faccenda in quel momento per noi più seria. Una fiducia pienissima e quasi cieca nella buona stella e nella virtù del condottiere faceva sì che la più gran parte dei mille non pensasse ai pericoli di quel viaggio, più che non s'avrebbe dato pensiero d'una corsa a vapore sul lago di Como o di Seo. Sorse, senza alcun notevole caso, la notte, durante la quale navigarono i due legni con placido mare, vegliando Garibaldi continuamente a tutto e facendosi spesso a riveder le bucce al timoniere, che aveva il carico di dover capirlo per aria. Qualche volta che il timoniere mostrava di non aver capito appuntino quanto si voleva da lui, Garibaldi dava subito nelle furie e tirava giù con imbrotti senza ombra di misericordia. In quella notte non vedemmo alcun lume. Sorse l'alba e non vedemmo terra né vela. Il lombardo ci teneva dietro, secondo la forza dei suoi cavalli, e noi ci fermavamo di quando in quando a ciò non restasse soverchiamente discosto. Il tempo era quieto, il vento caldo, l'acqua cominciava a venir giù dalle nuvole in sottilissime fila. Dopo mezzogiorno veniva giù la pioggia tanto lietamente che fu un piacere a sentirla. Il generale era sceso da basso dopo aver rinnovato certe sue raccomandazioni al capitano Castiglia. A un tratto, mentre stavo chiacchierando con certi scolari dell'università di Padova, il generale s'affaccia e mi dice: «Bandi, venite giù». Aveva sul naso gli occhiali e un pezzo di foglio in mano. Ecco, cominciò. Mi sono accorto che fra tanti poeti che siete, non ce n'è uno che abbia voglia di mettere insieme quattro versi per cantarti nel primo combattimento che avremo. Si direbbe che le vostre muse patiscano il mal di mare. È toccato dunque a me, soggiunse, a tirar giù qualche verso. Vogliate però compatirmi, perché fui sempre e sono oggi più che mai un cattivo poeta. E mi lesse i seguenti versi, che furono scritti sopra un pezzetto di carta ingiallita e sulla quale, poiché l'ho qui sott'occhio, si scorge una macchia che può benissimo giudicarsi essere una macchia di sangue. Lo stranier la mia terra calpesta, il mio gregge macella, il mio onor vuol strapparmi, ma un ferro mi resta, un acciar per ferirlo nel cuor. Non sei stanco di gioco, d'oltraggi, di codarde lusinghe, di inganni? Questa terra, servili e tiranni, solo sopporta, ma prodi non più, lo stranier, eccetera, eccetera, eccetera. La poesia era breve, ma prometteva di continuare. Come capirà facilmente il lettore, io avevo tutt'altra voglia che quella di mettermi a fare il critico, ma Garibaldi, per buona sorte, non mi pose il caso di dichiarare se i suoi versi mi piacevano o no, perché, consegnandomi il foglio, soggiunse subito: «Io vorrei che a questi versi si adattasse qualche musica, ma vorrei una musica vivace, buona, a mettere il fuoco addosso alla gente, al pari della Marsigliese. In una parola, una musica che desse l'idea di un attacco alla baionetta». «Generale, mi piace tanto la musica», risposi, «ma per mia disgrazia e vostra, l'arte dei capperi non l'ho imparata». «Che importa? Avrete sentito molte opere, mi immagino, adattate a questi versi la musica di qualche coro guerresco». Mi provai a cantare quei versi sull'aria del coro di guerra dell'Ernani, ma al generale non piacque. Provai due o tre altre arie, ma ebbero la stessa sorte. Allora pensai un momento e percorsi con la celerità della folgore tutte le opere che avevo udite negli anni lieti, in cui piacciono a tutti la musica e le ragazze. Mi parve aver sciolto finalmente il gran nodo, e dissi tutto allegro: «Senta, generale, senta, se a questi versi andasse bene la musica del coro della Norma, che dice guerra, guerra», e spiegato nuovamente il foglio, cominciai a cantare. Garibaldi me lo fe ripetere due o tre volte e si provò anch'egli a cantarlo e soggiunse: «Vabbè, ora tornate su, scegliete gente che abbia buone orecchie e buona voce, insegnatele codesta musica e quando vi paia tempo manderete ad avvisarmi e vi verrò a sentire». Salito, che fui sul ponte, chiamai Enrico Cairoli e tanti altri e lessi loro le strofe e dissi che il generale voleva che imparassero a cantarle sull'aria del coro della Norma. In un baleno fu fatto intorno a me un bel cerchio e cominciai a concertare battendo il tempo come l'orecchio mi suggeriva. Quell'aria è bellissima e Wagner stesso le faceva tanto di cappello, ma la non è tale che possa imboccarsi lì per lì alle turbe profane di un maestro arci profano, quale erede è l'umile scrittore di questi capitoli. Per la qualcosa, per quanto battessi e ribattessi e cercassi tenere il tono e in misura i miei canarini, questi, trasformandosi in aquile, in falchi e in altri simili uccellacci, strillavano e urlavano come spiritati e non c'era modo di richiamarli al segno. Era un diavoleto, un tumulto di stonazioni tale da squarciar le orecchie. Io avevo perso la pazienza e cominciavo a sfoderare i moccoli del mio bel paese. Più si provava e più cresceva la cananea. Il pubblico cominciava a ridere, a più non posso, e ci avrebbe fischiati tutti se non era la paura del generale. Finalmente Giacomo Griziotti da Pavia, audacissimo fra tutti e incapace di tener lungamente in briglia l'umor balzano, facendosi a suon di spinta in mezzo a noi, cominciò a cantare ad alta voce la bella Gigogin, e tutti i miei coristi e tutto il riverito pubblico a fargli coro, che parve un finimondo. Durava da qualche istante e cresceva gloriosamente quel baccano infernale quando Garibaldi fece capolino. Corsi subito da lui. «Che musica è quella?» chiese. «L'avete inventata voi?» «No, no, non io», risposi. «È quel matto di Griziotti, che non vuol sentire il coro della norma e manda a rotoli il mio concerto e ci fa fischiare». «Diavolo!» gridò il generale e con un gran tonfo si richiuse dentro. Navigammo tranquilli tutto il resto della notte, avvicinandoci alle coste africane e precisamente al Capo Bon, a distanza di una trentina di miglia. Non sapemmo dove si andava e molto meno ci accorgemmo che, dopo aver fatto punta verso il Capo Bon, girammo largo per accostarci dritti dritti alla Sicilia. L'aurora, in quel memorando giorno, che fu l'undicesimo di maggio, sorse raggiante e serena. Il generale aveva ben detto nel giorno innanzi che i delfini ci porterebbero buon tempo e non tempesta, ed io, nel dargli il buongiorno, esclamai: «Generale, avete fatto bugiardi Dante e delfini!» «Così siam bugiardi», rispose, «anche coloro che ci voglia male». Alle 5:30, con l'aiuto del canocchiale, si distinse chiara l'isoletta che si chiama Maretimo ed è una delle Egadi. Fatto il calcolo della distanza, Garibaldi e Castiglia dissero che ci volevano ancora 6 ore e più per giungere alle coste della Sicilia. Tutti volevano vedere la Sicilia e tutti aguzzavano gli occhi cercandola nell'estrema linea dell'azzurro orizzonte. Ma la Sicilia si faceva desiderare. Ma anche se la Sicilia fosse comparsa così di buon'ora ai nostri occhi, chi ci diceva che sbarcheremmo in giornata? A buon conto, eravamo a poche ore di distanza dall'isola, ma lo stesso Garibaldi non aveva scelto per anche il luogo dello sbarco. Però egli vide indispensabile il risolversi e chiamò seco a consulta, oltre al capitano Castiglia, i fuoriusciti siciliani più autorevoli, facendo loro capire che era prudente il toccar terra più presto che fosse possibile. Udendo discorrere di uno sbarco immediato, parecchi siciliani autorevoli e spiccioli rammentarono che quel giorno era giorno di venerdì e cominciarono a taroccare, lagnandosi che un'impresa tanto audace come era quella della liberazione dell'isola s'avesse a inaugurare in un giorno nel quale è destino che tutte le ciambelle riescano senza buco. Ai siciliani fecero tosto eco diverse napoletani e calabresi, ugualmente superstiziosi e taccagni, sicché in un attimo il generale si trovò in mezzo a una folla di piagnoni che per il bene suo e di tutti lo scongiurarono caldamente e poco meno che con le lacrime a guardarsi dalla iettatura del venerdì. Garibaldi sulle prime sorrise, ma poi, vedendo costoro incaponirsi nello sciocco pregiudizio e venendogli fastidioso quell'assedio, gridò: «E che venerdì e non venerdì? Tutti i giorni della settimana son buoni per chi vuol combattere per una causa giusta!» Udendo queste parole del generale, i piagnoni alzarono gli occhi al cielo, e noi altri, che non credevamo nella iettatura, ci mettemmo a ridere a più non posso e a dar la baia ai piagnoni. Tolto che fu di scena questo comico episodio, fu ripresa la consulta intorno al luogo dello sbarco. Venne in ballo Marsala, porto che, per quanto angusto e fatto riempir di rena da Don Giovanni d'Austria dopo la battaglia di Lepanto, offriva approdo sicuro alle navi e comoda sosta agli uomini in una città popolosa e già venuta, come dicevasi, nelle mani degli insorti. Dopo alquanto discutere, Garibaldi fissò che sarebbero sbarcati a Marsala e che lo sbarco si farebbe più sollecitamente che si potesse, seppure la crociera borbonica non comparisse improvvisa a frastornare i loro disegni. Ci riunimmo in famiglia per la colazione, che venne anticipata di quasi 2 ore, secondo il vecchio ed aureo proverbio che dice «chi ha tempo non aspetti tempo». Eravamo a tavola da pochi minuti quando la vedetta, appollaiata sull'albero maestro del nostro legno, accennò la terra. Un grido festoso salutò quell'annunzio, fu un abbracciarsi, un agitar di berretti, un'ebbrezza indescrivibile, ben poteva dirsi col tasso, ecco, da 1000 voci unitamente, Gerusalemme salutar, si sente. Il generale, sollecito, lasciò subito la tavola, prese il comando della nave e, fattosi recare un canocchiale lungo e grosso quanto un cannone da campagna, si pose a guardare per ogni parte, cercando qualche cosa che nessuno vedeva, ma che egli aveva in animo che non dovesse tardar molto a vedersi. Per il lungo cammin di quei giorni non una vela s'era mostrata allo sguardo dei 1000. Pareva che il nostro condottiero avesse scelto una via disusata e sola per giungere più improvviso che potesse alle spiagge di Sicilia. Passato l'isolotto di Maretimo, vogammo non lungi da Favignana, isola infame nel martirio di tanti patrioti che furono sepolti nell'ergastolo della sua rocca. Lassù sta il povero Nicotera, esclamò Garibaldi asciugandosi una lacrima. E Nicotera ebbe a dirci, indi a pochi giorni, d'aver provato un fausto ed indicibile presentimento, osservando di tra le sbarre del carcere i 2 legni misteriosi. Oltrepassata Favignana, apparsa bella e ridente la spiaggia di Sicilia, e raggiunto il capo Provvidenza, il capitano Castiglia additò a Garibaldi il porto di Marsala, che biancheggiava da lungi. Ma un altro spettacolo apparve intanto al vigile sguardo del prode Nizzardo. 2 legni a vapore d'una grossa fregata a vela ci venivano incontro a golfo lanciato, tentando tagliarci fuori dalla costa e pigliarci in mezzo. Ammutolimmo a tal vista, ed un lugubre silenzio successe alle esclamazioni di gioia suscitate dall'aspetto dell'isola vicina. Qui Garibaldi guardò attentamente quei legni, quindi, volgendo l'occhio sul porto di Marsala, depose il cannocchiale esclamando con un allegro sorriso: «Oggi le fregate napoletane rimarranno con tanto di naso. Rossi, appoggiata a Marsala!» Era 1 ora prima di mezzogiorno. Si gareggiava adesso tra le nostre e le navi borboniche, a chi prima toccherebbe il porto. 20 minuti più o meno decidevano della vittoria e dell'unità della patria. Invano alcuni siciliani proposero al generale di virar di bordo e tentar lo sbarco colà o in altra parte durante la notte, egli li respinse con un no così tondo che non trovaron più il fiato di parlare. Aveva seguito la prima ispirazione ed era per lui un augurio certissimo di successo. Non lo avrebbero mosso dal suo proposito tutti i 1000 uniti insieme. Le campane di Marsala suonavano il mezzogiorno quando giungemmo vicini ai 2 legni ancorati che al nostro apparire alzarono la bandiera inglese e ci tolsero una spina dal cuore. Non restava adesso che infilare nel porto e mettere a terra la gente prima che si avvicinassero gli incrociatori nemici, uno dei quali ci seguiva a 4 miglia forse di distanza, ed era questo lo Stromboli, pirocorvetta della Regia Marina napoletana. Garibaldi chiamò a sé il colonnello Tour, gli impose che non appena sostato in porto il Piemonte scendesse con le guide e i carabinieri genovesi sul barcone e, pigliata terra, si affacciasse in città, nel mentre che Andrea Rossi, Schiaffino ed altri correrebbero su canotti a pigliare le barche dei pescatori e dei bastimenti ancorati. Abizio poi comandò col portavoce serrasse sotto al Piemonte e seguisse la sua manovra. Il Piemonte entrò difilato nel porto rimorchiando la paranzella e, riuscita ad imboccare il canale, unico sito navigabile in quel povero scalo, gittò felicemente l'ancora di rimpetto alla fabbrica di vini dell'Ingham e al consolato inglese dove sventolava la temuta bandiera dei tre regni. In un batter d'occhio turco su 50 uomini fu a terra ed, occupata la piccola torre del molo, corse alla porta della città, nel mentre che la più parte della gente congregata per l'arrivo dei due vapori se la dava a gambe per lo spavento. Ma non andò guari che diversi giovani, usciti allora dalla città, si fecero intorno ai nostri, e Garibaldi disse nel vederli: «Meno male, cominciano almeno i marsalesi a saper chi siamo». In quel punto io stavo accanto a lui sulla passerella e gli reggevo il gran cannocchiale che mi chiedeva di quando in quando per vedere il fatto suo, cioè per guardare i legni del Borbone che s'andavano avvicinando sempre più. Mentre egli guardava sul mare, io volsi gli occhi a terra e, non scorgendo segni di rivoluzione né alcun indizio della padronanza dei famosi insorti, mi accorsi subito che se Dio e le nostre mani non ci aiutavano, potevamo chiamarci fritti. Il generale fe tosto scendere rapidamente i volontari sulle lance, che in un baleno s'affollavano intorno al Piemonte, e diceva a barcaiuoli siciliani: «Andate, andate e tornate subito, avete già guadagnato una buona giornata». Sbarcati gli uomini, si pensò a mettere giù le artiglierie e le altre robe, cosa che riuscì sollecita perché eravamo lontani da terra di pochissimo tratto. Mentre questo accadeva sul Piemonte, Garibaldi cominciò a impensierirsi non mediocremente per il Lombardo, che, essendo arenato, come dissi, sull'entrata del porto, era in risico di venir malconcio dalle artiglierie nemiche prima assai che avesse posto a terra la molta gente che aveva a bordo. Perciò non cessava di gridare che mandassero e rimandassero barche al Lombardo, e si impazientiva se non v'andavano sollecite e nel numero che avrebbe voluto.